Su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Miei cari amici vicini e lontani, ovunque voi siate, buongiorno. Oggi è venerdì 13 di aprile 2012, è il 104esimo giorno dall'inizio dell'anno e la Chiesa Cattolica ricorda San Martino I. La luna è La luna è all'ultimo quarto. Oggi, come già avete sentito dal nostro GR, a Palermo c'è stata una forte scossa di terremoto e nemmeno fa l'apposta nel 1992 un terremoto di 5,5 gradi della scala di Richter colpisce anche l'Olanda. Abbiamo questa cosa in comune. Noti importanti, nomi importanti del panorama internazionale sono nati oggi. Ad esempio nel 1975 è nato Luc Bega, Marco Mazzocchi nel 66, Maurizio Mannoni, giornalista e conduttore TV, e poi nel 1519 Caterina de' Medici, regina di Spagna. Ricordiamo alcune cose importanti che vi permettono di fare le vostre dediche e richieste, che sono il nostro sito internet, da dove potete, oltre a sentirci, anche vedere questa immagine della costa di Cefalù. Oggi il mare è leggermente mosso anche a causa di questa brutta giornata che è comparsa, che è www.crmepiradio.it, all'interno del quale, come già detto, si possono fare le vostre dediche e le vostre richieste. Oppure avete a disposizione il 335 56 37 251 lo 09 21 92 32 92. Partiamo subito con la musica. Lo facciamo con il Cile, un ragazzo giovanissimo sponsorizzato dai Nirvana. Anche questa è vita, respirare i silenzi spietati di una donna che hai perso, quando il freddo di tutto l'inverno brucia più dell'inferno e ti guardi dentro e capisci che qualcosa hai sbagliato. Anche questa è vita, vagabondi e innamorati a una stazione, in un cestino, in un abbraccio c'è uguale immersione, così acido è il sapore di una delusione. Anche questa è vita, un lavoro che non sopporti ma che devi fare, perché senza uno stipendio sei un difetto sociale, perché crepi per consumare, consumi crepando. Anche questa è vita, ritrovarsi in una rissa di sabato sera, come sfondo le luci blu di una sirena, mentre scappi e tutto intorno a una nuvola nera. Oh, anche questa è vita, ascoltare i politici che fanno chiari discorsi, che il paese ha bisogno soltanto di iene ghignanti, di pagliacci da televisione, dettagli eleganti. Anche questa è vita, ingoiare una polaroid di carta vetrata, regressione in chiave etilica di un'altra giornata. Non potresti mai capire quanto ti ho amata. Oh no, come sei? Mi hai lasciato in un oceano di filo spinato. Io ti ho dato prati di viole, tu cemento armato, cemento armato. Come sei? Mi hai lasciato in un oceano di filo spinato. Io ti ho dato prati di viole, tu cemento armato, cemento armato, cemento armato. Sulle ultime note di questa bella canzone del Il Cile, cemento armato, come già detto, sponsorizzato dai Nirvana.

Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Questa è carina veramente, due ricercatori dell'università del americano hanno trovato una risposta scientifica a uno dei dilemmi che da sempre affollano le serate dei bar degli italiani. Chi è bello non riesce a trovare lavoro più facilmente. Secondo quanto espresso dalla ricerca effettuata dai due studiosi israeliani, la risposta è chiaramente un bel no. Infatti i due ricercatori hanno compilato un curriculum vitae dove hanno inserito delle foto di ragazze e dei ragazzi delle rispettive università, dividendo adeguatamente in belle e brutte. Il totale sono stati individuati 5.312 curriculum per offerte di lavoro, dove non era stato specificato il sesso ed ovviamente i curriculum erano scritti in modo da risultare qualificati per l'annuncio in questione. Alla fine, diciamo, tirando le somme, il risultato è venuto fuori che le ragazze e i ragazzi più belli sono stati scartati da questa ricerca di personale. Quindi, ahimè, chi è troppo bello viene un pochettino... Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Affamati come lupi, viviamo in crudeltà e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto a me, da soli

fantasma c'è. C'è. Ma cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera. Come un bimbo mi guardi severa. E io soffro tanto. Poi effettivamente in questo periodo ci si aspettava che i partiti rinunciassero a questo finanziamento, a questo rimborso, invece no. La decisione quindi dei partiti è quelli che per adesso ci accordiamo, un piccolo accordo, un accordicchio, come ha detto anche Di Pietro, ma diciamo che tutti quanti gli altri non è che si sono ribellati a questa decisione. Ma sai, in questo periodo di grande crisi nessuno vuole perdere. Slalom. Flashback. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well.

and my frisbee flies to the ground. But what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one serve if I leave the ball to you. You write the word, but I miss the volume. What'll I say without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Oh, oh, oh, hey. My boat won't roll, my bus doesn't come. And I held the fingers, you got the thumb. Oh, what'll I do without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Oh, oh, hey. Oh, Slalom. Flashback. Allora, in questo momento di crisi, il fisco dichiara guerra anche alle escort. Il caso è avvenuto in Romagna, a Rimini, dove gli uomini delle Fiamme Gialle hanno scoperto due lucciole che non hanno dichiarato nessun reddito, pur avendo praticamente una casa in centro e una macchina in uso. Ora, le due signorine sono state fermate e dovranno versare quanto è verso in questi anni. La crisi è crisi. Continuiamo con la musica. Adele. She ain't gonna be able to love you like I will. She is a stranger. You and I have history, or don't you remember? Sure, she's got it all. But baby, is that really what you want? Blessed up, so you got your head in the clouds. You made a fool out of you. she ain't got your love anymore. Ci ha parlato la volta scorsa ed è una cosa carina perché ci è venuto a trovare telefonicamente il nostro caro amico Carmelo Lucà, che negli anni 80 era leader incontrastato degli Alisei, un gruppo palermitano. Ciao Carmelo e benvenuto all'interno di Slano, una trasmissione di, su CRM Happy Radio. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Come stai innanzitutto? La tua voce è sempre bella come tantissimi anni fa. Ah, grazie. Niente, io vorrei farti tanti auguri posticipati di buona Pasqua, avrei dovuto farli diciamo 5-6 giorni fa, però non mi è stato possibile. Sì, non è... vabbè, non ha importanza, l'importante è dopo 40 giorni alla Pasqua è sempre auguri, si possono fare infatti, sempre gli auguri. Infatti. Dico bene? Sì, benissimo. Allora, io volevo un attimino scambiare due parole a proposito del di questo nuovo look che si è dato a questa nuova canzone che io già sto riproponendo, che è quella di Senza di lei. Sì, ma come già ben tu sai, non è un pezzo nuovo, è un pezzo dell'epoca, addirittura del 71. E che stiamo riproponendo, comunque quello che stiamo facendo è una nuova proposta ripercorrendo diciamo gli anni 70, quindi stiamo cercando di riprendere quello che abbiamo lasciato, che in primis era il genere folk rock in lingua siciliana, poi ci adattammo allora, come ben sai, per entrare nel mercato del disco con delle canzoncine più abbordabili. E quindi nacque allora un pezzo come Senza di lei, come L'amore non ha età e tanti altri pezzi. Stiamo cercando di riproporci in una nuova versione, anche perché ahimè ne mancano due componenti della vecchia formazione. Sì, Michele Sidoti, se non vado errato. Sì, e il batterista Enzo Guagliardo, che purtroppo non ci sono più tra di noi, quindi... Quindi sono stati sostituiti da due nuovi elementi che sono... Diciamo che il sassofonista e il flautista, che era Michele Sidoti, non l'abbiamo più. Quindi ho preso, siamo con una formazione un po' diversa, con due tastieristi, quindi oltre me c'è un altro pianista, e il batterista è un certo Gabriele, che poi avremo modo di farti conoscere meglio, una nuova proposta che viene dal conservatorio, quindi un ragazzo con tutte le carte in regola per poter effettivamente riproporsi alla grande. Ok, ma volevo chiederti una cosa: cosa ha spinto Carmelo Lucà a riproporre nuovamente Senza di lei? Ma ti dico la verità, io già mi ero adagiato, e quindi lungi da me pensare di ripropormi nuovamente. Sono stati gli amici che... Salvo Valenza, che è stato? No, amici, ex musicisti che mi hanno proposto di riprendere quello che abbiamo interrotto. E sembrerebbe che siamo un po' in attesa per capire effettivamente se ne valsa la pena o meno. Ma io credo di sì, anche perché io sto riproponendo e sto mandando in onda questa canzone, sia perché avendo avuto l'opportunità di in quel periodo di ascoltare la versione originale di Senza di lei, questa è una versione sicuramente migliorata anche per i tempi, è molto più acustica, c'ha una sonorità tipicamente da Sanremo, quindi molto più coinvolgente di prima. Certamente capirai che i tempi, allora i mezzi a disposizione che avevamo non erano diverso, quelli che abbiamo adesso, voglio dirti che, tra altre cose, questa nuova riproposta del pezzo Senza di lei non è quella ufficiale, è sempre ufficiosa, perché ancora stiamo facendo dei piccoli cambiamenti. Quindi tu in anteprima stai prendendo ad ascoltare una cosa che non avresti dovuto per ascoltare, però vabbè, comunque dai, è stata fatta, perché a me piace comunque riscoprire delle cose interessanti, e credo che questa faccia parte di quelle cose interessanti. Ma sai, io vorrei tanto che quello che stiamo facendo noi lo riproponessero altri musicisti, perché la Sicilia è piena di grandi talenti, nel palermitano in particolare. Anche in questa zona delle Madonie comunque. Sì, guarda, e purtroppo non abbiamo, diciamo, quella famosa piattaforma che riesce a far uscire fuori dalla penuria questi musicisti, e le condizioni veramente ti portano al punto che molti di loro hanno abbandonato per procurarsi un lavoro, qualche cosa che potesse quantomeno sopravvivere in questa nostra società. Quindi capirai, certamente io al momento non è che vivo di musica, l'ho fatto per 25 anni, quindi, ma voglio dire, sarebbe bello se anche le amministrazioni spingessero locali per questa, ci dessero una mano, non solo a noi ma a tutti i musicisti che hanno voglia di riproporsi. Bene, questo potrebbe essere un appello. Carmelo, io ti ringrazio di averci concesso questa intervista, ti auguro tante belle cose, buona vita soprattutto, e in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Ringrazio te e tutti gli ascoltatori che mi hanno supportato, e spero tanto di essere lì uno di questi giorni, anche perché già abbiamo delle serate per il prossimo agosto, e quindi vorrei tanto che una di quelle date fosse anche Cefalù o qualcosa. Quindi ti aspettiamo anche qui in radio, così avremo modo di sentire anche la versione nuova, quindi quella definitiva per quanto riguarda Senza di lei. Esatto. Ok, Carmelo, ti auguro buona vita, buona giornata e grazie di tutto. Ciao a tutti quanti, grazie a voi tutti. Slalom Flashback. Everybody's Got to Live Sometimes, negli anni 80 erano i Corgis che cantavano questa canzone. Un baio di birra e sei più intelligente o quantomeno creativo, ma solo se sei uomo. E questo quanto sostengono i ricercatori dell'università dell'Illinois in Chicago, dove gli studiosi hanno fatto un esperimento su un campione di 40 uomini che aveva bevuto un paio di birre e è stato più veloce a risolvere un quiz. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Con questa confusione di terremoto a Palermo, ora mi dicevano che c'è stata una scossa di assestamento, c'è un po' di confusione e sicuramente abbiamo un po' ritardato l'incontro telefonico con il nostro caro maestro, il nostro chef Alessandro Orefice. Buongiorno Alessandro e ben trovato anche per oggi. Buongiorno Francesco, a te e a tutti gli ascoltatori. Ma allora, questo terremoto l'hai sentito o non l'hai sentito? Devo dire la verità, stamattina avevo preso altre cose, io comunque sia, neanche il terremoto ci fa, ci sta bene a scuotermi un po', quindi di conseguenza l'ho sentito a livello vocale perché tutti ne parlavano, però io personalmente mi trovavo in una situazione diversa, tale da non poter neanche percepire il terremoto. Comunque fortunatamente è stata una cosa lieve e nessuno ha riscontrato danni e cose insomma fastidiose. No, ma la cosa strana è che poc'anzi parlavo con dei miei amici a Palermo, hanno detto la sicurezza dell'ufficio li fa andare giù quando c'è una nuova scossa di terremoto. Dice non ci beccheremo sicuramente, ringraziando il buon Dio, il terremoto, ma sicuramente l'influenza ce la beccheremo, perché con il fatto che fanno entra e esce all'ufficio si stanno infreddolendo, soprattutto considerando il tempo. Beh, che oggi è una giornata un po' curiosa veramente. Allora, per oggi cosa ci hai preparato, caro amico Alessandro? Allora, oggi andremo a proporre degli involtini di melanzana. Solitamente è un piatto che viene utilizzato come antipasto, però nelle nostre tavole può sposarsi bene anche come secondo, ovviamente a base di verdure. Viene eseguito con una semplicità incredibile. Andiamo a tagliare in lungo le melanzane, all'incirca devono essere di spessore un centimetro. Le andiamo a friggere in olio abbastanza caldo e le poniamo in una placca con della carta sotto, in maniera tale che l'olio in eccesso venga assorbito dalla stessa. A parte prepareremo un fondo con un bel cipollotto, olio extravergine d'oliva, uva passa e pinoli. Facciamo imbiondire il tutto e poi andremo a mettere un paio di cucchiaiotti di concentrato di pomodoro. Allunghiamo con dell'acqua e lasceremo cucinare con delle foglie di basilico, sale e pepe. A questo punto, quando la salsa sarà pronta, che ha un'esecuzione massima di un quarto d'ora a 20 minuti, taglieremo del pan carré a dadini, faremo una bella dadolata di pan carré. Andremo a mettere del formaggio, possibilmente se troviamo il nostro favoloso primo sale, lo andiamo a mettere o a tocchetti o ci aiutiamo con una grattugia facendo la scagliette. Chiaramente andremo ad incorporare la salsa al pan carré, a del formaggio grattugiato e queste scagliette di primo sale e otterremo un composto abbastanza soffice. Perché consiglio il pan carré invece del pan grattato? Perché il pan grattato tende a rimanere stopposo, il pan carré mantiene una certa morbidezza e quindi di conseguenza il palato sarà sicuramente più delicato e più soffice. Andremo a stendere le nostre melanzane e metteremo all'interno un po' di farcia, rotolandole le andremo a sistemare in una placchetta dove andremo a mettere sotto una semplicissima salsa di pomodoro. Chiaramente la salsa di pomodoro la possiamo realizzare con la cipolla, la realizziamo shue shue con dell'aglio e del basilico, comunque sempre buona viene. Ne metteremo una parte sotto, andremo a sistemare i nostri involtini di sopra, andremo a velare nuovamente con la nostra salsa di pomodoro e cospargiamo di parmigiano grattugiato. Andremo a mettere in forno per 10 minuti a una temperatura di 180 gradi, serviremo ben caldo con una favolosa guarnizione di basilico fresco, che adesso comincia il periodo che il basilico è veramente di una profumazione indescrivibile. E quindi in pochi minuti abbiamo preparato un antipasto che comunque, come dicevo prima, può essere anche somministrato come secondo con pienissima tranquillità. Perfetto, ti ringrazio anche per oggi, ti auguro buona vita e buona continuazione di lavoro. Ringrazio tutti voi per il vostro ascolto e per la vostra estrema simpatia. Ma soprattutto io ringrazio te per la tua collaborazione, perché qua vanno scrivendo, le ricette li scrivono. Mi diceva stamattina Patrizia, che non è presente qui in radio, ma ci siamo sentiti, che comunque l'ha fatto l'esperimento della ricetta della volta scorsa, di mercoledì. Quindi bene, è bene. Andata bene. Benissimo. Dai, buona continuazione, buon lavoro. Salutami i tuoi collaboratori. Ciao, salutami e buona vita. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Slalom. Flashback. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Vi ricordo che siete su Slalom, o meglio state ascoltando Slalom, la trasmissione che viene trasmessa ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 10 alle 13 in diretta su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire anche tramite internet ovunque voi vi troviate, dall'altra parte del mondo, siete a Palermo, siete ad Agrigento, dove siete, voi potete andare direttamente al nostro sito che è www.crmepiradio.it e da lì ascoltarci e potete anche ammirare attualmente la webcam che è indirizzata proprio sulla costa di Cefalù, un po' bruttina stamattina ma comunque conseguenza del tempo abbastanza grigio. Continuiamo e parliamo di una notizia curiosa che abbiamo trovato su internet. La crisi economica è molto pesante ed alcuni paesi come la Grecia, la Spagna, l'Italia che viviamo stanno pagando questo momento difficile, ma dalla Spagna arriva una soluzione e precisamente da un paesino piccolino che si chiama Rasquera in Catalogna. Lì hanno fatto un referendum dove l'amministrazione comunale ha disposto se erano d'accordo i paesani a coltivare marijuana. Questo porterebbe alle casse del comune circa 550.000 euro all'anno e 40 posti di lavoro. Con la crisi che c'è anche questi paesini cercano di risolvere il problema crisi, ma soprattutto i posti di lavoro, con questa iniziativa che viene direttamente dalla Spagna. Ma la cosa strana è che mentre in Olanda si pensa di proibire la vendita del coffee shop di marijuana e tutto quello che riguarda le erbe, in questo paesino della Catalogna stanno cercando proprio di portare e di legalizzare quella che è l'attività che attualmente è. Slalom Flashback. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Mario Barlotelli torna a parlare di sé per le sue azioni fuori dal terreno di gioco, però questa volta non fa una cosa burrascosa, comincia veramente una cosa carina, perché fa un video rap insieme a uno dei rappers inglesi che è in auge in questo periodo, che è R.E.I.O. Però la cosa strana è che all'interno del video c'è anche Rio Ferdinand, che è una delle bandiere del Manchester United. Non so se adesso la Manchester City starà un pochettino incavolato. Come on, come on. Out of the town if we spend the night.